Mungo, mi sono carato. Tu sei qui che vuol parlare con te, Cicci. Come stai? Spero che mi stia tutto buono. Fammi sapere qualche buona notizia, che questo cambermi che te non so fisca l'Italia. Se non c'è una cosa solta, spero che sia tutto buono. Tu sei qui, parto qui. Papà, come stiamo? Noi stiamo tutti bene. Così speriamo di sentire di voi tutti. Io vado a un marchetto, da che si sono chiuse le scuole. Ti piace uscire Marche? Che mi piace. Ti piace lavorare? Che mi piace. Ti piace l'America? Su, speriamo di venire tutti voi qua in America e vivere tutti assieme come una volta. Padre! Mi fa commuovere! Dirti due parole, io e Franco, due fratelli uniti. Vi saluto, vi abbraccio caramente, vostra figlia Franca. Mi date notizie che sarò Piruccio. Il più fratello affezionato a me. Papà, come stai tu? Pinuccio sta bene adesso. Dice Mauro che ha combinato a scuola. Franca va a lavorare, ma non è una jobba fissa, troverà un altro lavoro. Dice, noi stiamo tutti bene, così speriamo sentire sempre le vostre notizie. Di bene. Tanti saluti alla nonna, Pinuccio e a tutti. Speriamo di abbracciare quanto più prima la nostra sorella Anna. Bye. Bye.